Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mi vergogno di vivere in un paese come l'Italia. Oggi è morta la democrazia. Vaffanculo, mi viene da dire. Anche perché Renzi e Berlusconi chiacchierano di legge elettorale. Io mi vergogno di un paese come questo. Non finisce qui. Non finisce qui perché ci sono milioni di italiani che aspettavano giustizia. Non finisce qui. Poi qualcuno non si azzardi a dire che la gente si arrabbia senza motivo, perché oggi veramente è un insulto a milioni di italiani e per quanto ci riguarda ce la leghiamo al dito e andiamo avanti. Se la lega al dito Matteo Salvini, leader della Lega, e insomma usato parole colorite, diciamo, per la rabbia nei confronti della Corte Costituzionale che oggi ha bocciato il suo referendum, il referendum della Lega per abrogare la famigerata, secondo Salvini, la Lega e magari altri, legge Fornero. Quindi diciamo che non ha resistito e non ha evitato le parolacce che avete sentito. Quindi la politica è sempre molto vivace, lo sapete, in Italia, molto in fibrillazione, e fra le altre cose questa sera parleremo in particolare delle spaccature all'interno del PD, ma non soltanto nel PD, perché fronde si stanno annunciando da varie parti, quindi sarà un argomento appassionante da una parte e dall'altra vediamo insomma dove va a parare, se le cose poi si concretizzano in senso positivo soprattutto per il paese. 349-238-6666 sempre il numero, sapete, per i messaggi, gli sms da mandare in diretta, 349-238-6666, oppure alla pagina Facebook di Effetto Notte. Fra i vari argomenti, se volete, sempre sulla politica, c'è Raffaele Fitto, ex Delfino, possiamo dire, di Silvio Berlusconi, che ha detto oggi: Berlusconi, sostenendo così Renzi e anche l'Italicum, suicida Forza Italia. Voi cosa ne pensate, per esempio, di questa dichiarazione di Fitto? Intanto, però, lo sapete, dall'inizio io vi racconto la giornata, poi andiamo sugli altri temi. Italicum, il PD si spacca, sì, della maggioranza a Renzi, ma in 29 dicono no, e il Presidente del Consiglio avverte basta con i frenatori. Banca e rivoluzione per quelle popolari, il governo le trasforma in SPA. Allarme terrorismo, espulso uno studente dalla normale di Pisa, giovedì il decreto delle misure preventive del governo. Il processo a Cabobo, la Corte d'Appello conferma i 20 anni di condanna per il ghanese che uccise a picconate a Milano 3 passanti. Argentina, proteste contro il Presidente Kirchner dopo la morte del procuratore che l'accusava. Sulle mani del magistrato non ci sono tracce di polvere da sparo. Yemen, il paese nel caos, i ribelli prendono il palazzo presidenziale, legge Fornero, la consulta, boccia il referendum della Lega per abrogarla, ira di Salvini, calcio, Coppa Italia, ancora ottavi di finale, stasera tocca a Roma-Empoli. Partiamo quindi dall'iter accidentato della riforma della legge elettorale, con spaccature drammatiche all'interno del PD e non solo, come vi dicevo. Per il PD in particolare si continua a respirare comunque un clima da resa dei conti. La spaccatura c'è, ma Matteo Renzi va avanti lo stesso. Il premier non demorde sull'Italicum, malgrado la minoranza Dem continui a contestare i capi lista bloccati. Renzi incontra dapprima Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, poi i senatori democratici a Palazzo Madama. In assemblea 71 votano sì, 29 non votano. Il premier interviene a fine giornata. Siamo qui per fare le riforme, per cambiare le cose, per ridare spazio e speranza agli italiani, per non perdere neanche un minuto. E da questo punto di vista, con buona pace di quelli che vorrebbero fare i frenatori, noi andiamo avanti. Al centro della protesta anche l'emendamento Esposito, ovvero un maxi canguro che annulla in un sol colpo 40.000 emendamenti, incluso quello a firma di Miguel Gotor sulle preferenze. Il senatore PD non chiarisce però se in aula voterà contro o uscirà. Io personalmente ho già dichiarato che non voterò l'Italicum, uscirà dall'aula oppure voterò contro. Anche questo ogni giorno ha la sua pena. I margini nell'aula di Palazzo Madama sono piuttosto stretti. Il Movimento 5 Stelle è pronto a votare con la minoranza Dem, mentre Silvio Berlusconi deve vedersela con la sua fronda. Raffaele Fitto parla di suicidio politico e di 20 voti contrari. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palazzo Madama. Voi che ne pensate? Si rischia il suicidio di Forza Italia da parte di Berlusconi sostenendo Renzi e l'Italicum, come dice Raffaele Fitto? Però andiamo avanti. Oggi si è tenuto il Consiglio dei Ministri, dedicato al decreto su banche e investimenti, mentre il pacchetto delle misure antiterrorismo slitta giovedì. 10 gli istituti coinvolti, quelli con attivi superiori ad 8 miliardi. Questi avranno 18 mesi di tempo per superare il voto capitario e trasformarsi in SPA. Il governo va avanti dunque con decreto sulle banche popolari, ma attenzione, spiega il Presidente del Consiglio Renzi, non si tratta di danneggiare la storia dei piccoli istituti. istituti, ma far sì che le banche sul territorio siano all'altezza delle sfide europee e mondiali. Abbiamo troppi banchieri e facciamo poco credito, dice ancora il Premier. Quindi il Ministro dell'Economia, diamo una scossa ma con un intervento graduale, aggiunge Padoan. Introduciamo una norma sulla portabilità dei conti correnti. Il costo di chiusura del conto corrente è a carico della banca, questo deve essere fatto in tempi relativamente rapidi. C'è stata condivisione con Banca Italia, dice ancora Padoan. L'intervento sulle popolari rafforza il sistema. Nell'Investment Compact non sono previste regole certe per i grandi investitori, aggiunge il ministro per lo sviluppo economico Guidi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come dicevamo, nel Consiglio dei Ministri è stato rinviato il tema della lotta al terrorismo, diventerà un decreto giovedì. Proprio oggi è arrivata comunque la notizia dell'espulsione dall'Italia di uno studente universitario. Se le nuove norme fossero state già varate, forse anche quel sito sarebbe stato già chiuso, il sito dove uno studente dell'Università Normale ha dichiarato il suo appoggio al jihad. Ma insieme al resto del pacchetto antiterrorismo, anche la stretta su internet slitta invece al prossimo Consiglio dei Ministri. È proprio sul web che avviene gran parte del monitoraggio degli investigatori ed è lì che la Digos si è imbattuta in questo allievo della celeberrima scuola pisana, un ventenne turco del corso di perfezionamento in fisica che a dicembre aveva postato commenti anti-Occidente. Così nel giro di pochi giorni lo studente è passato dalle aule dell'Ateneo, dove era entrato solo un mese prima per la sua competenza in buchi neri, ai cancelli del CIE per poi essere espulso dall'Italia. La scuola non controlla i blog ed è aperta alle candidature di qualunque paese, ricorda il direttore della Normale Beltram. Per questo ora la notizia sembra sorprendere tutti, tranne i professori dell'università, che ricordano come un Ateneo rivolto al mondo si porti in casa le tensioni del mondo, come è successo anche in passato con i dissidenti durante il fascismo, col caso Kristeller, oppure elenca Adriano Prosperi quando la Normale si ritrovarono ex partigiani. E il mondo continua anche oggi ad entrare pure con la paura del terrorismo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sulla pagina estera, a partire dall'Argentina, dove vacilla la tesi del suicidio del giudice anti-Kirchner. Il presidente argentino Alberto Nisman, che stava indagando sulla presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, non si è suicidato. Niente polvere da sparo sulla sua mano. Quindi il grilletto della calibro 22, trovata a fianco del suo corpo senza vita nel bagno di casa, è stato premuto da qualcun altro. E questo è il risultato delle prime indagini condotte dal procuratore Viviana Fain, rese note a Buenos Aires. Nelle stesse ore la presidenta Fernández de Kirchner ha sostenuto la tesi opposta. Nisman si è suicidato. Si tinge di giallo la vicenda, ma soprattutto assume un carattere inquietante, dato che Nisman indagava su una strage avvenuta nel 1994 al centro ebraico di Buenos Aires, dove persero la vita 85 persone. L'Iran, secondo il procuratore, era responsabile della strage, ma i servizi segreti argentini e persino il governo pare abbiano ostacolato la condanna dei responsabili, pezzi grossi del governo di Teheran. Intanto a Buenos Aires le strade sono invase da manifestanti che scandiscono tre parole: Yo soy Nisman, la versione argentina di Je suis Charlie. Roberto Darin, Radio 24, Sole 24 Ore. Dall'Argentina allo Yemen, dove i ribelli sciiti hanno preso il controllo del palazzo presidenziale, nella capitale Sana'a, è praticamente il colpo di Stato, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon si dice seriamente preoccupato e deplora i combattimenti tra i gruppi armati Ansarallah e le truppe presidenziali a Sana'a e dice cessate immediatamente tutte le ostilità. E poi un'altra notizia: con una decisione in attesa, la Corte Suprema indiana ha annullato la condanna all'ergastolo inflitta a Tommaso Bruno e a Elisabetta Boncompagni, pronunciata dall'alta corte dell'Uttar Pradesh, disponendone l'immediata liberazione di questi due cittadini italiani. Rabbia della madre della vittima, il sardo Francesco Montis, che senza esitazione ha parlato di decisione incomprensibile. E poi in Francia è stata data la cittadinanza all'eroe musulmano che salvò gli ostaggi da Koulibaly nel supermercato Kosher, in cui Koulibaly aveva preso diversi ostaggi. E questo cittadino del Mali, Lassana Batili, era eroe musulmano, ha salvato la vita a diversi ostaggi che sarebbero sennò morti insieme agli altri uccisi da Koulibaly in questo supermercato Kosher di Parigi. Torniamo sulle notizie italiane con Alitalia, il primo CDA che c'è stato oggi per la nuova compagnia, e molte sono le novità. un'Alitalia più sexy e con un ritorno all'utile nel 2017. Sono obiettivi ambiziosi quelli dei vertici della compagnia che hanno tenuto la prima conferenza stampa congiunta. Quattro gli ingredienti per il successo, secondo il presidente Luca Cordero di Montezemolo: le risorse umane, la forza del brand, i servizi innovativi e le rotte, che verranno notevolmente rafforzate. I voli a lungo raggio passeranno da 11 a 25 settimanali entro il 2018 e ci saranno nuove destinazioni come Catania, Abu Dhabi o Venezia, Shanghai. Ma l'obiettivo principale, ha detto Montezemolo, è però un altro. L'obiettivo importante di questo impegnativo ma realistico piano industriale è di portare l'azienda in utile nel 2017. Quanto al rilancio occupazionale, per l'amministratore delegato Saverio Cassano, prima bisogna rimettere i conti a posto. Dobbiamo mettere le cose in ordine. Non è possibile fare delle promesse oggi solo perché ci sono delle domande di questo tipo. Difendiamo e aiutiamo le 11.000 persone che sono oggi all'interno dell'Italia a lavorare meglio e poi pensiamo ad allargare questa famiglia. Questa è l'ultima possibilità di salvare l'Italia, ha detto il numero uno di Etihad, James Hogan, assicurando che Etihad per l'Italia è un investitore di lungo termine e non mordi e fuggi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 20 anni di carcere per Adam Cabobo, con il riconoscimento del vizio parziale di mente e la misura di sicurezza a 3 anni appena espiata. Il ghanese, ve lo ricordate, uccise 3 passanti a colpi di piccone a Milano nel maggio del 2013. E c'è in collegamento l'avvocata Anna Cifuni. Buonasera, avvocata. Buonasera, buonasera. Che rappresenta la famiglia di una delle vittime, rappresenta il fratello e la madre di Alessandro. Sì, Calore. Qual è il suo commento, così, se l'aspettava intanto questa conferma della Corte d'Appello? Ce l'aspettavamo tutti, una sentenza che confermasse quella di primo grado, posto che comunque, diciamo, l'appello dell'imputato aveva come scopo quello di ottenere quella che era la totale infermità di mente di Cabobo, ma in primo grado era stata fatta una perizia ordinata dal giudice con delle tecniche molto avanzate, diciamo che aveva operato in maniera eccellente, e per cui era difficile ribaltarne i contenuti, per cui è stata sancita quella che era la sentenza di primo grado confermando il fatto che Cabobo era parzialmente infermo di mente, per cui è pienamente imputabile, ed è stata confermata quella sentenza. Quindi siete soddisfatti? Ovvio che per le vittime, sì, siamo soddisfatti, ovvio che chiaramente per le vittime, per i parenti delle vittime, un quadro completamente diverso dal punto di vista emotivo, perché insomma è una tragedia difficilmente digeribile, come ben si può immaginare. Certo. Però, se lei mi permette, guardi, volevo soltanto fare un rilievo di questo tipo, perché la vicenda di Cabobo, sostanzialmente, al di là del fatto criminoso in sé, con le caratteristiche che ha, perché comunque si tratta di un soggetto particolare, effettivamente un soggetto affetto da un importante vizio di mente, resta però un dato, secondo me, dal punto di vista sociale interessante, e cioè che parliamo di persone che sono rimaste vittime di un reato commesso da un soggetto straniero. Peraltro molto probabilmente, questo non è certo, ma molto probabilmente era irregolare sul territorio italiano, quindi immigrato, a carico di cittadini italiani. Sotto questo profilo bisogna dire che c'è una carenza dal punto di vista legislativo, a mio parere, a parere anche degli altri difensori che assistono le vittime, perché in realtà faccio un breve rilievo di questo tipo, perché c'è stata tempo fa, nel 2004, una direttiva della Comunità Europea che aveva imposto agli Stati membri di istituire un fondo proprio per le vittime di quei reati, tipo questi, di natura violenta, commessi da persone che erano poi impossibilitate a fare quello che era un risarcimento del danno. Ed è il caso proprio di Cabobo, perché Cabobo è stato condannato al risarcimento del danno, ma è di solare evidenza che è persona priva di qualsiasi capacità economica per riparare e risarcire il danno. Per cui, ecco, c'è un vuoto legislativo dal punto di vista italiano, perché l'Italia non ha dato mai attuazione a questa direttiva. Lo ha fatto in maniera parziale, non mi addentro, diciamo, in disquisizioni giuridiche, ma comunque di fatto c'è una carenza da questo punto di vista, secondo me ingiustificata. Chiarissimo, avvocata Cifuni. Effettivamente il problema c'è, e intanto poi per il processo si dovrà arrivare comunque alla Cassazione, ma al momento la Corte d'Appello appunto ha confermato i 20 anni. Grazie intanto, avvocata Cifuni. Va bene, a lei, arrivederci. Grazie. Buona serata. Altra notizia di cronaca è stata la fuga di gas a Roma nell'esplosione. Oggi un morto e 14 feriti, e si cerca una donna di 80 anni, di 82 anni, che non sarebbe tra le vittime, ma potrebbe aver consumato una vendetta per il fatto di essere stata sfrattata. Comunque la si sta cercando. Per il calcio c'è il nostro Dario Ricci per la Coppa Italia con Roma e Empoli. Sono ancora gli ottavi di finale, vero Dario? Sì, sì, sì, Roberta, ferratissima come sempre. Siamo al 20° di gioco. All'Olimpico la Roma è già in vantaggio grazie alla rete al 4° minuto di Iturbe. C'è stata una bella iniziativa di Maicon sulla destra, il cross al centro, una deviazione, bravi Iturbe prima a controllare il pallone, poi a liberarsi di un difensore toscano e a siglare con un bel diagonale di destro 1-0. Poi Empoli vicino al pareggio al 10°, questa volta il diagonale dell'ex di turno Tavano e di sinistro, fuori veramente di pochissimo. 19° in questo istante, Roma 1, Empoli 0. Grazie Dario Ricci, a dopo per gli ultimi aggiornamenti. Intanto leggo alcuni vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Note al 349-238-6666, questo per i messaggi. A proposito del fatto che secondo Fitto Berlusconi stia suicidando il suo partito con il sostegno a Renzi, dice Francesco: Berlusconi suicida il suo partito, avercene per Renzi di avversari così. Ci sentiamo dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed ecco qui, ve l'avevo appena detto di questa inquilina sospettata dell'esplosione di Roma per lo sfratto. È stata rintracciata, fermata dalla polizia, 82 anni, abitava nell'appartamento da cui è partita l'esplosione della scorsa notte in un palazzo di Roma, che ha provocato appunto la morte di un uomo e il ferimento di 21 persone. Poi si chiariranno insomma i fatti e le circostanze. Intanto vi ricordo le altre notizie. Italicum nel PD passa la linea Renzi, la minoranza non vota e dice però Renzi i frenatori si rassegnino, e c'è l'ok anche di Berlusconi all'emendamento. Rivoluzione per le banche popolari, presto 10 saranno delle SPA. E poi il Consiglio dei Ministri che vara il decreto appunto per renderle delle società per azioni. Bocciato il referendum contro la legge Fornero, ira di Salvini, lo avete sentito. Terrorismo, espulso uno studente turco della normale di Pisa. Yemen nel caos con il colpo di Stato. Giallo in Argentina, strano suicidio del magistrato antipresidente Kirchner. E poi l'avete sentito, l'esplosione in questo palazzo a Roma con questa 82enne che è stata fermata. Al momento ancora tutto da chiarire. Adesso parliamo di politica, parliamo del caos che c'è dentro il PD e non solo, e ne parleremo tra pochissimo con un esponente forte, molto forte della minoranza PD bersaniana. Intanto vi dico che Matteo Renzi ha incassato oggi il via libera sull'Italicum, sulla riforma cioè della legge elettorale, dall'Assemblea dei senatori del PD. Hanno votato sì in 71, uno si è astenuto, quindi una maggioranza assoluta, 29, quelli appunto della minoranza, della fronda come la vogliamo chiamare, sono usciti, non hanno partecipato al voto. Sentiamo dopo la ministra Boschi. Intanto coinvolgo subito il senatore del PD Miguel Gotor. Buonasera Gotor, buonasera senatore. Buonasera a voi. Può essere anche definito spina nel fianco di Renzi o miglior nemico di Renzi, come Renzi stesso ha detto, senatore Gotor? Sì, ho visto che questa battuta ha riscosso un certo successo. Beh, insomma, il nemico preferito. Il nemico preferito ha una certa importanza, essere il nemico preferito del Presidente del Consiglio, soprattutto all'interno dello stesso partito, immagino. All'interno dello stesso partito non ci dovrebbero essere nemici, ma un Presidente del Consiglio, secondo me, dovrebbe pensare ad altro e non a un semplice senatore del proprio partito. Ma comunque, ripeto, sono battute, sono state dette. Certo. Anche Gotor, sentiamo anche una sua battuta su Renzi di ieri. Tante volte ho avuto l'impressione che Renzi facesse e faccia lo struzzo. Ecco, tra gufi, struzzi, canguri ultimamente è anche venuto fuori con questo emendamento di cui parla. Insomma, diciamo che la fauna del PD si moltiplica e cresce. Però mi permetta solo, senatore Gotor, un attimo di pazienza, che voglio fare due conti se lei mi aiuta. Allora, lei guida questo gruppo di 29 senatori che hanno sottoscritto un documento in cui manifestano la loro condizione contrarietà alla nuova legge elettorale, così come si presenta oggi. Aspetti. Le do un po' di numeri. No, gli do io i numeri. Aspetti. Se sono sbagliati, è un peccato. No, perché 29 sono. Dopodiché è uscito un documento che ho visto oggi pomeriggio di tre senatrici della minoranza PD, Albano, Idem, Puppato, che dicono: noi abbiamo sottoscritto questo documento che certifica l'importanza che assume una buona legge elettorale, eccetera, eccetera, ma il punto politico della riforma da promuovere vale più di ogni motivata riflessione nel merito e vincola la nostra scelta al voto favorevole all'Italia. Come siamo? 29-3, 26. Mi fa parlare perché sto dicendo una serie di inesattezze, quindi perché? Scusi. Dica. Grazie. Allora, i senatori del Partito Democratico sono 108. Sì. E oggi hanno votato in 70. Ah. Le agenzie riportano 71. Mm. 71, mi scusi, sì. 71 su 108. Ce ne sono 29 che non hanno partecipato al voto e hanno presentato un documento, sì, che è stato sottoscritto anche dalle tre senatrici che ha ricordato, che impegna i senatori e le senatrici a votare gli emendamenti che abbiamo presentato in aula, e le senatrici che lei ha ricordato non verranno meno a questo impegno, nel senso che ce l'hanno assolutamente garantito. Poi è una questione diversa la questione che riguarda il voto finale della legge, è una questione che abbiamo tutti noi che abbiamo sottoscritto quel documento tenuta aperta, perché non ci sembra giusto nel momento in cui si sta facendo una battaglia in difesa del diritto dei parlamentari a rispettare l'articolo 67 della Costituzione. Noi rispondiamo alla nazione prima che a un gruppo, a un partito. Ci sarebbe sembrato assurdo vincolare poi i firmatari di questo documento alla decisione di un voto finale. Poi ciascuno di noi, fra questi 29 firmatari, prenderà una sua posizione. Io mi sono sempre espresso, infatti lei vedo che ha seguito con attenzione le mie affermazioni di questi giorni, mi sono sempre espresso a titolo personale, e a titolo personale ho dichiarato che se l'Italicum manterrà un sistema bloccato di Parlamento con una maggioranza di circa il 60% di parlamentari nominati e non scelti direttamente dagli italiani, io, Miguel Gotor, personalmente non voterò questa legge. Chiarissimo, però io stavo andando, mi scusi, continuo con i numeri, perché stavo andando per addizione in realtà, con una piccola sottrazione iniziale, ma con un'addizione, però lei mi ha detto che non sono sottratte. Dopodiché, sono sottratte perché loro si sono impegnate, sottoscrivendo quel documento, comunque a votare gli emendamenti. Sì. E domani insomma, lo faranno. Certo. Altra la questione del voto finale che ci sarà, che so io, giovedì, venerdì, non lo sapremo. Settimana prossima, mi sembra di aver visto un'agenzia che parla di settimana prossima, se non sbaglio. Sì. Politica. Sì, vediamo se lo ritrovo, ma ce l'avevo qui e diceva proprio così, man mano vediamo se lo ritrovo. Dopodiché il Movimento 5 Stelle, gli ex del Movimento 5 Stelle hanno creato un coordinamento, sono in 12 e anche loro hanno annunciato di condividere l'emendamento Gotor sull'Italicum. Quindi saremo a un più 38-39. Dopodiché tutto il Movimento 5 Stelle ha detto che farà di tutto per impedire l'approvazione di una legge irricevibile, quindi non so poi che numeri saranno. Lo stesso Fitto, Raffaele Fitto di Forza Italia, sa che disapprova Berlusconi, dice così suicida Forza Italia sostenendo l'Italicum e Renzi, e sarebbero 20 frondisti per il momento che voterebbero contro. Perché sì. Suicida? Le spiego, provo a spiegare a chi, certo, sta ascoltando ovviamente la dichiarazione di Fitto, perché oggi Berlusconi avrebbe acceduto o ha acceduto a che ci sia solo e soltanto un premio alla lista. E dal momento che Forza Italia, per prevalere nella competizione elettorale, avrebbe bisogno di fare una coalizione, ecco che Fitto dice: beh, ma allora se ci è impedito di fare una coalizione, vuol dire che Berlusconi sta giocando a perdere. O in realtà, come dire, ha fatto un accordo, è questione di queste ore, ha fatto un accordo, un pacchetto con Renzi. Ci troviamo nella solita Italia, l'Italia del consociativismo, in cui chi governa e chi è all'opposizione, invece di respirare con due polmoni diversi e autonomi, no, insomma, si fa affari insieme, si mette insieme e si garantisce reciprocamente. E Gotor, eccolo ritrovata, l'agenzia dice voto finale entro la prossima settimana. Entro la prossima settimana. Me l'aspetto per venerdì, per sì. dirlo, ecco, insomma, sì. in base me l'aspetto per venerdì. Senta, ma lei diciamo alla dichiarazione di Renzi, o l'insinuazione, come vogliamo dirla, che dice in realtà questa non è una partita che la minoranza sta giocando intorno alla riforma elettorale, riguarda invece una questione politica, e cioè la vicenda del Quirinale. Sosterrebbe Renzi, che non è tanto. Guardi, è stato Renzi temporalmente a sovrapporre le due vicende, è un dato di fatto, e lo ha fatto perché in questo modo egli ritiene di poter condizionare una serie di personalità che legittimamente aspirano a poter diventare presidenti della Repubblica. Noi dovremmo, come dire, limitarci nelle nostre irresponsabilità e tenere separati il più possibile le due cose, nonostante questo tentativo di Renzi di tenerle una accanto all'altra, anche nell'ottica di decidere con Verdini e con Berlusconi il prossimo Presidente della Repubblica. Vanno tenute separate perché tra due settimane noi eleggeremo il successore di Napolitano e la questione sarà chiusa, mentre invece in queste ore, in questi giorni, stiamo scrivendo una legge elettorale che poi ci terremo per i prossimi 10-15 anni, abbiamo visto quanto si fatica a cambiarla. Allora a noi ci sembra incredibile che questa legge contenga al suo interno l'aspetto peggiore del Porcellum. Abbiamo una politica che ancora una volta si chiude in un fortino e si separa dai cittadini, dalla società. E per 10 anni il Porcellum ha prodotto un Parlamento di nominati, ha aumentato il discredito delle istituzioni, della politica e in modo indiretto anche della democrazia italiana. A me duole dover registrare che questo aspetto dei parlamentari nominati a maggioranza, un 60%, resterà nella nuova legge. E siccome però sono un senatore che sta in queste ore legiferando, avverte come suo massimo dovere cercare di fare il possibile perché questa legge migliori e sia più efficace della precedente. Preferisco fare così e non tra 3-4 anni trovarmi a rispondere a una telefonate di una radio e fare l'indignato, unirmi al coro degli indignati per dire ancora una volta c'è una legge elettorale che blocca i parlamentari, che impedisce la scelta. Insomma, il momento è questo e ci stiamo comportando in modo serio e responsabile. Poi sarà ovviamente il Parlamento, l'Assemblea, l'Aula nella sua sovranità a decidere quali caratteri avrà la nuova legge elettorale. Gotor, ritorno un attimo sul Quirinale proprio per pochi istanti, perché si continua a fare il nome di Giuliano Amato, allora sembra sia il candidato ufficiale di Berlusconi, a Renzi non dispiace, anche Bersani ha detto che però non sarebbe sfavorevole, che è un bersaniano, lei è un bersaniano, no? Quindi sì, potrebbe sì. essere il nome papabile questo, alla fine trovare Guardi, l'accordo di tutti? Penso che in questa fase si faccia un torto se si inserisce nella giostra dei criceti di continuo dei nuovi nomi. È molto importante ora stabilire un metodo. La Costituzione ci dice che nelle prime tre votazioni bisogna cercare una maggioranza il più possibile larga, perché servono i voti di oltre 700 grandi elettori. Di conseguenza il Presidente della Repubblica viene scelto e deve essere scelto anche con il concorso delle opposizioni. E io spero che il Partito Democratico segua il solco della Costituzione e di conseguenza inizi a individuare un candidato che, come altri illustri predecessori, penso a Ciampi ad esempio, ha potuto godere di l'ampio e del più ampio consenso dell'assemblea elettiva, perché ricordiamoci che il Presidente della Repubblica non è il rappresentante di una parte ma dell'unità nazionale. E sarei più preoccupato invece se, come lo stesso Renzi ha detto, bisognerebbe cercare la maggiore collaborazione possibile con le opposizioni, ma votare il presidente dalla quarta, quando in realtà saranno sufficienti poco più che 500 grandi elettori. Perché sono preoccupato? Perché questo significherebbe che appunto Renzi spera e auspica di scegliere il prossimo Presidente della Repubblica con Berlusconi e con Verdini, e io credo che questo sia un errore, però è un errore che riguarda il metodo, quindi non i nomi. Beh, ci aggiorneremo allora quando si comincerà a votare. Grazie senatore Gotor. Buonasera. Grazie, buonasera. E vedo altri messaggi, c'è Daniele che scrive al 349-238-6666, Casini, Prodi, Amato, e perché non Totorina, con Totò Upil sarebbe esplosivo. Questa è la battuta di Daniele, poi leggerò gli altri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma dobbiamo prenderci una pausa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberto Giordano con voi, con me anche i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Lucio dice: buonasera, una domanda al vostro ospite, ma perché non fanno una scissione chiara, magari un altro partito di sinistra, si prendano le loro responsabilità a questo punto, oppure no? Ieri ne abbiamo parlato anche con Civati, ma sembra che per il momento la scissione ogni tanto sia solo minacciata, ma non sia possibilità concreta. Paolo da Udine: Berlusconi è come un pugile suonato, purtroppo non c'è nessuno che possa gettare la spugna per toglierlo di mezzo, ha già distrutto il partito. Dice Paolo, ma vi ricordo tutte le altre notizie. Italicum, il PD si spacca, si della maggioranza a Renzi, ma i 29 dicono di no. C'era poco fa il senatore Gotor, ma il presidente del Consiglio avverte: basta con i frenatori. Banca e rivoluzione per quelle popolari, il governo le trasforma in SPA. Allarme terrorismo, espulso uno studente della Normale di Pisa, giovedì il decreto delle misure preventive del governo. Il processo a Cabobo, la Corte d'Appello conferma i 20 anni di condanna per il ghanese che uccise a picconate a Milano tre passanti. Abbiamo avuto l'avvocata, un'avvocata di parte civile. Argentina, proteste contro la presidente Kirchner dopo la morte sospetta del procuratore che l'accusava. Sulle mani del magistrato non ci sono tracce di polvere da sparo, non sarebbe suicidio. Yemen, il paese nel caos, i ribelli si prendono il palazzo presidenziale. E poi l'esplosione in un palazzo a Roma con un morto e 14 feriti, fermata l'inquilina di 82 anni sfrattata da cui, dall'appartamento da quale è partita l'esplosione. Per il calcio stanno giocando in Coppa Italia Roma e Empoli. Ne abbiamo parlato anche ieri, dopo la frase del ministro degli esteri Gentiloni e dopo anche un vertice dell'Unione Europea dei ministri degli esteri sulle misure da prendere per coordinarsi in Europa sulle misure di sicurezza appunto contro il terrorismo. Oggi nel Consiglio dei Ministri doveva essere varato un pacchetto per quanto riguarda l'Italia di misure antiterrorismo, però poi si è deciso di farlo slittare a giovedì e sarà trasformato questo disegno di legge in un decreto perché ha effettivamente delle caratteristiche di urgenza, quindi diventerà un decreto. Saluto Gianandrea Gaiani, buonasera Gianandrea. Buonasera a te e agli ascoltatori. Direttore della rivista Analisi Difesa e collaboratore del Sole 24 Ore. Gianandrea, fra queste norme che già erano state annunciate ieri, ci sono pene fino a 10 anni per i foreign fighters, cioè i combattenti stranieri che si muovono da uno stato all'altro, ritiro del passaporto per i sospetti, reato ad hoc per punire chi organizza viaggi di combattenti, possibilità di oscurare siti web jihadisti, uno di questi era quello che guardava per esempio questo studente turco espulso dalla Normale di Pisa, stretta sugli esplosivi. Ti sembrano misure che possano essere efficaci queste, anche se appunto il decreto poi ci sarà giovedì? Ma sono misure che forse andavano prese prima, sai, in tutta Europa ci si è mobilitati ora dopo i fatti di Parigi, e sono misure importanti perché il controllo del web è uno degli strumenti attraverso i quali i jihadisti non solo comunicano ma si tengono in contatto, si organizzano e fanno propria propaganda. Lo Stato Islamico lo utilizza moltissimo, addirittura ha una rivista online, da Bic, no? Che fa pubblicità, propaganda alle sue gesta. Non so quanto possano essere efficaci, consideriamo che anche se il Kouassi era stato condannato in Francia per aver arruolato dei volontari per andare a combattere il jihad. Uno dei due killer, stai dicendo, i Kouassi, sì, fratelli Kouassi, sì. esattamente uno dei due killer dell'attacco alla redazione di Charlie Hebdo, e era stato condannato per questa cosa, per questo reato, a 18 mesi di carcere, insomma, quindi più che sufficienti a farglieli scontare rapidamente e poi a farlo tornare in azione. Quindi non so quanto potranno essere efficaci in un contesto in cui ormai l'Europa, abbiamo visto, è piena di, se non di, di combattenti che sono già rientrati dalla Siria, quantomeno piena di loro sostenitori, di fiancheggiatori, di propagandisti. Però certamente è un segnale importante. Quello che forse ci vorrebbe è un segnale un po' più omogeneo in tutta Europa. Anche la Francia e la Germania pensano a soluzioni del genere, ad esempio la Danimarca attua soluzioni molto diverse. C'è una ad Aarhus, seconda città danese, c'è una moschea che ha aderito allo Stato islamico, il governo sta negoziando con loro perché almeno condannino la decapitazione di occidentali, e addirittura alcuni foreign fighters rientrati in Danimarca vengono riabilitati con programmi rieducativi. Ad uno ad esempio stanno pagando gli studi in ingegneria. Però è facile la battuta, no? Dire così magari domani saprà dove è meglio mettere le bombe quando dovrà far saltare qualcosa. Cioè, forse non c'è un disegno comune su come fronteggiare il problema. Senti, gli Stati Uniti come si stanno comportando in questo dall'11 settembre in poi, anche per esempio per cercare di arginare il bacino Siria, no? Un vivaio, un ricettacolo, secondo i punti di vista, di terroristi che vanno e vengono? Ma l'Europa sta seguendo una strada che ha percorso anche gli Stati Uniti, in fondo qualcuno parla di un Patriot Act anche in Europa, cioè di misure che possono servire come sono servite negli Stati Uniti, togliendo un po' di libertà e di privacy ai cittadini ad aumentare i controlli interni. Però gli Stati Uniti sono molto contraddittori nella loro lotta al terrorismo, lo sono oggi più che mai, basti pensare che proprio in questi giorni sono partiti alla volta della Turchia, della Giordania, dei paesi della coalizione intorno alla Siria 400 militari delle forze speciali americane che dovranno addestrare almeno 5.000 nuovi volontari della ribellione siriana che dovrebbero combattere lo Stato islamico. È fatto che questo programma, finanziato con mezzo miliardo di dollari, quindi più o meno costerà ognuno di questi miliziani addestrati circa $100.000 in media, e dovrebbero combattere lo Stato islamico. Questo gruppo però verranno formati in Giordania, in Turchia, con la collaborazione del Qatar e dell'Arabia Saudita, che sono, guarda caso, gli stessi paesi, insieme alla Turchia, che hanno sostenuto i gruppi jihadisti che sono attivi contro Bashar Assad, ma sono anche quelli che poi minacciano l'Iraq e minacciano tutti noi oggi. Quindi il rischio forse è che, a mio parere, che questa iniziativa di armare 5.000 nuovi miliziani, e poi dovrebbero diventare 15.000, che in teoria dovrebbero combattere lo Stato islamico ma anche Bashar Assad, beh, rischiamo come in passato di ritrovarceli tutti dalla parte dello Stato islamico o dei qaedisti del fronte al Nusra, e pronti quindi a minacciare anche l'Occidente. Un gran paradosso, insomma, caro Gianandrea Gaiani, dal quale si può uscire o mi sembra un circuito, non so come definirlo, vizioso e impazzito. Ci vorrebbe un grande coraggio politico, quello di ammettere che la campagna che l'Occidente ha fatto contro Bashar Assad, che non è un santo, ma non lo era neppure quando i nostri leader andavano a osannarlo come uomo di pace prima del 2011, che la campagna che abbiamo fatto sostenendo la rivolta sunnita contro Bashar Assad è stato un autogol spaventoso, che ha portato non solo al disastro in Medio Oriente, ma sta portando al disastro e al correre grossi rischi sul fronte terroristico anche l'Europa e tutto l'Occidente. Già. Grazie Gianandrea Gaiani, intanto. Grazie, buona continuazione. Ciao. Sentiamo aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Ancora i messaggi. Anna dice: Giuliano Amato, not in my name, dice Anna. Poi Gianni, c'è qualcuno che critica la minoranza PD perché dice vuole frenare i cambiamenti, qualcuno invece che accusa Renzi di dice voleva rottamare, invece non si cambia, sempre i soliti nomi. C'è un aggiornamento di adesso di Berlusconi, che fino a qualche tempo fa era per il premio alla coalizione, perché contava di fare una coalizione anche con la Lega, Nuovo Centrodestra eccetera, invece che adesso dice è l'attribuzione del premio di maggioranza a una lista, quindi non una coalizione, una lista come vuole l'Italicum, può rappresentare un importante stimolo a superare egoismi delle forze politiche, quasi un'imposizione di legge per l'unificazione del centrodestra. Questa è l'evoluzione del pensiero di Berlusconi. Le altre notizie: Italicum nel PD passa la linea Renzi, la minoranza non vota, i frenatori si rassegnano, dice il Presidente del Consiglio, rivoluzione per le banche popolari, presto 10 saranno delle società per azioni, poi è stato bocciato il referendum contro legge Fornero, c'è stata la rabbia di Salvini che abbiamo sentito, terrorismo espulso espulso dall'Italia uno studente turco della normale di Pisa. Giovedì arriva il decreto con il pacchetto con le nuove misure antiterrorismo. Europa 24 notte. E anche per lo spazio europeo parliamo di sicurezza e privacy. Gli attentati di Parigi allarmano l'Europa, spingono i governi verso una maggiore cooperazione, uno scambio di informazioni reciproci fra i servizi di intelligence. Tra le misure antiterrorismo allo studio a livello europeo c'è soprattutto il piano di schedatura dei passeggeri dei voli aerei, ne parlavamo ieri col garante della privacy, il cosiddetto PNR, un piano in realtà bloccato da anni dal Parlamento europeo perché si teme appunto possa ledere il diritto alla privacy. L'equilibrio tra privacy e sicurezza è delicato, ma oggi viene al primo posto la sicurezza, aveva detto ieri il ministro Gentiloni. Sentiamo cosa ne pensa Caterina Chinnici, europarlamentare componente della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, al microfono di Alessandra Schepisi. Io credo che noi dobbiamo affrontare questo tema in un momento come questo, mettendo da parte mai quella ottica dell'emergenza con la quale purtroppo talvolta si affrontano taluni temi, ma cercando di razionalizzare i nostri interventi e di conciliare le diverse esigenze. Non c'è dubbio che la lotta al terrorismo in questo momento è una priorità, ed è una priorità rispetto alla quale io credo gli Stati e l'Unione Europea devono necessariamente far fronte comune, bilanciando però l'esigenza di contrastare efficacemente il fenomeno con il rispetto dei principi fondamentali della nostra democrazia. E quindi, sotto il profilo di cui mi parlava lei, che poi è diciamo il famoso PNR, il Passenger Name Record, bilanciare appunto quell'esigenza di controllo con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali. Ma in che modo si potrebbe bilanciare? Perché poi alla fine, se c'è una schedatura di tutti i dati dei passeggeri, comunque obiettivamente c'è poi una violazione della privacy. Beh, certo. Allora, io ritengo che un controllo indubbiamente sia necessario, però questo controllo deve essere fatto attraverso uno strumento che può essere quello appunto del cosiddetto PNR, che però sia rispettoso dei principi fondamentali che peraltro sono stati sanciti dalla stessa Carta dei diritti. Che vuol dire questo? Che quei diritti fondamentali possono essere, diciamo, in qualche modo compressi, possono essere sacrificati, però tenendo presente determinati criteri, cioè stabilire sì delle limitazioni, tenendo presente però dei criteri, per esempio il principio della proporzionalità, che prevede che possano essere apportate delle limitazioni a quel diritto, ma purché siano necessarie, purché rispondano effettivamente a delle finalità di interesse generale, che siano riconosciute dall'Unione, purché diciamo rispondano all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Quindi io dicevo all'inizio appunto che tutto va affrontato non in un'ottica di emergenza, ma in un'ottica di regolamentazione rispettosa delle regole stabilite, in questo caso parliamo dei diritti fondamentali. Quindi ecco, cercare di trovare la giusta diciamo soluzione e il giusto equilibrio fra un'esigenza di sicurezza che in questo momento avvertiamo fortemente, ma che deve essere sempre tenuta presente, è la tutela però dei diritti fondamentali, cioè quindi nella ricerca dei dati, nell'elaborazione, nella conservazione dei dati, nell'accessibilità ai dati, va sempre tenuto presente però anche il rispetto dei diritti fondamentali. Quindi insomma si riuscirà a trovare secondo lei questo giusto equilibrio? L'Europarlamento riuscirà a votare questo nuovo pacchetto di norme? Io me lo auguro, io devo dire sono fiduciosa, perché credo che ci sono intanto si sta lavorando appunto su un pacchetto di norme che sono già volti ad aggiornare e ad attualizzare la direttiva che riguarda la tutela delle persone sul trattamento dei dati personali, e sarebbe opportuno che questo lavoro venisse fatto, che questo pacchetto venisse definito ancora prima, diciamo comunque contestualmente all'adozione delle misure suscettibili di incidere più direttamente sulla privacy. Ci si sta lavorando con impegno, e io credo che si possa trovare un buon bilanciamento fra le diverse la tutela dei diversi diritti, purché si possa raggiungere, dialogando, si possa raggiungere un buon accordo in questo senso, e credo che questa disponibilità ci sia in questo momento in ambito del Parlamento europeo, ovviamente. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Vedevo un messaggio ancora sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre sull'ipotesi, sulla diciamo la tesi di Raffaele Fitto che Forza Italia, che Berlusconi stia suicidando Forza Italia appoggiando in questo modo Renzi. Filippo dice: sono pienamente d'accordo con la lettura data da Fitto, l'abbraccio di Berlusconi con Renzi, che sembra ormai indissolubile, sarà mortale per Forza Italia. Così dice, ma dopo le tensioni altissime della politica, dopo le misure antiterrorismo, la conferma della condanna di Cabobo, alleggeriamoci un po' con il Sun, la svolta del Sun, che è uno dei giornali britannici più letti, se non il più letto in Gran Bretagna, che ha deciso, il giornale di Rupert Murdoch, ha deciso di smetterla con i segni al vento, con la TB in primo piano. Sapete, tradizionalmente da 44 anni la terza pagina del Sun è dedicata, diciamo così, alle bellezze inglesi, però c'è stata questa decisione, non si capisce se per questioni, diciamo così, morali o moraleggianti, oppure per bieche questioni commerciali, perché gli inserzionisti si sono stufati di questa pagina un po' obsoleta. Tu che ne pensi, Gianluca Nicoletti, col tuo mailog tutti i giorni, lo ricordo, alle 12.30 qui su Radio 24, Gianluca? Ma che penso che una pagina di foto ha un suo costo, e come tutti i giornali avranno tagliato i costi, hanno pensato a tagliare la pagina più obsoleta, una pagina di donne nude in un magazine che oramai è letto anche da donne, non ha più senso, anche perché donne con il seno al vento non rappresentano più quella sorta di ricettacolo onirico per soli uomini. Mi ricordano, tu sei troppo giovane, i barbieri per maschio, oggi sono unisex i parrucchieri, grazie a Dio, avevano, ti davano dei calendarietti quando tu andavi dal barbiere, profumati, c'erano delle donnine nude, e gli uomini tenevano i portafogli, era un segno di appartenenza virile, il calendario non si guardava, ma c'erano delle donnine nude, delle pin-up, disegni innocenti, oggi potresti metterli negli asilo, nessuno se ne accorgerebbe. Ecco, lasciare una pagina di donne nude è una cosa vecchia, obsoleta, antica, vintage. Secondo me, se uno deve tagliare qualcosa, taglia quella, non ha più senso, è una reliquia senza nessun tipo di utente finale, diciamola così. Come non essere d'accordo con Gianluca Nicoletti. Grazie Nicoletti, non il consumatore finale, ma l'utente finale. Ciao Gianluca, domani a Mailog alle 12.30. Ciao, grazie, ciao. Ciao, buona serata. Ci sono ancora vostri tanti messaggi, però adesso dobbiamo lasciarci, poi ritorno giusto come al solito per ricordarvi quali sono state le notizie principali di questa giornata.